È un mondo difficile, lo so. Però è mio. Musica allo stato puro. Tiri piglia, è sicuro. Sarebbe bello essere nuvole e avere un mondo da inseguire. Fermarsi solo un attimo e se c'è noia scomparire. È il programma col cuore di un bambino, è il cammino di Gigi D'Agostino. Resterà piccino il cammino di Gigi D'Agostino. Buongiorno a tutti voi, ma pure a noi. Ricomincia il cammino. Ricomincia il cammino di Gigi D'Agostino. M2O. Sei sintonizzato sulla frequenza della benevolenza. C'è il folclorista che ci pensa. Consigli del dottor Dag. Dottore, sto malissimo senza un motivo apparente. Che si fa in questi casi? Si sieda, stia calma. In questi casi non si fa niente. La sensazione di crollare e non sapere da cosa e da dove è una naturale sensazione che proviamo grazie alle nostre insicurezze e minchionate varie create dalla nostra immaginazione. Immaginazione a sua volta innescata dalla nostra paura di crollare, ma senza sapere da cosa e da dove. Insomma, più che un gatto che si morde la coda, direi che è un gatto che si morde il culo e contemporaneamente strofina le palle sul pavimento per essere sicuro di non avere pace. In sintesi, è un angosciante modulo ripetitivo voluto da noi. Il modulo ripetitivo viene chiamato anche loop. Il modulo ripetitivo viene chiamato anche loop. Il modulo ripetitivo viene chiamato anche loop. Loop infernale in questo caso. sta per partire l'operazione Viaggione. Chi non partecipa è in quel. Se siete un tantinello curiosi, potete visitare il mio sito www.gigidag.com. Pom, pom, pom. Pom, niente, finisce così. Viaggione, chi non partecipa. Ritroviamo qui ogni giorno, ore 18. Vi faccio ascoltare la musica che immagino e i viaggi che sogno. E ci sono molte dediche, devo dire, ma proprio tante. Ho già. Sono Silvia R. Dedico Cammino a Mario. Con tanto amore. Ti voglio un mondo di bene. Sono Gio da Piacenza. Vorrei dedicare Cammino ad Arianna. Vorrei camminare sempre con lei e dirle che l'amo. Sono Raffi. Voglio dedicare Cammino a tutti. Perché non posso pensare di fare del male a nessuno. Sono legato, trastornato da una storia che non ha più storia, che mi mancherà come l'aria. Sono rovinato, sono sputtanato, nel sangue c'è un valore che non va. Sarà forse l'alcol che non mangio, né frutta né verdura mai. Sono eccitato al solo pensiero di toccarla come piace a lei, con il santo padre che mi fa un gesto, mi raccomando che rimanga tra di noi. E cammino, cammino nel mio giardino, è come un soldatino, taratara, e cammino, cammino e corro come un bambino e sparo al destino, taratata, zingaro, libero, fino all'ultimo sorso, fino all'ultimo tiro, ma le onde in equilibrio, fino all'ultimo giorno, fino al prossimo giro, non posso fare male, nemmeno un animale, nemmeno uno scerino. sconcertato e sono solo un numero. È la televisione, è l'inflazione, preferisco il surf. Preferisco andare in alto mare, rischiare di restare là, come un faro spento in mezzo al vento e all'umidità. E cammino, cammino nel mio giardino e come un soldatino. Cammino, cammino e corro come un bambino e sparo al destino. Taratana, zingaro, libero, fino all'ultimo sorso, fino all'ultimo tiro. Ballerò in equilibrio sotto gli occhi distanti del nostro destino. Ma lasciatemi stare, lasciatemi andare, non posso pensare di fare del male. Nemmeno un animale, nemmeno un fiorellino, nemmeno uno scemo. Venire ad ascoltare la mia musica in discoteca, non hai la macchina, non sai come cacchio arrivare, non ti preoccupare, c'è il pulmino che ti viene ad acchiappare. Oh, già, operazione viaggione, chi non partecipa, eh? No, così. Dedico Angel alla mia amica Serena, Emanuele 86. Ciao Gigi Duck, sono Dario da Tricase. Vorrei dedicare Angel a mia zia, che adesso non c'è più, e dirgli che adesso nel cielo ci sarà un nuovo angelo. Ciao zia, ci mancherai. Ci fermiamo quel minimo. Riprendiamo il cammino tra qualche minuto. Si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Dedico Again a tutti gli ascoltatori che dalle 18 trasformano la propria espressione nella faccetta incazzatella al labbro spiovente. Pietro da Torino. Ciao Gigi, sei spacchioso, come diciamo a Catania. Sono Snap 87, volevo dedicare Again al mio amore. Vorrei dedicare Again a Marino, il DJ Monellino, e a me stesso, DJ Francesco. Vorrei dedicare Again alla mia ciuccellina, Ilaria, e dirle che le voglio un mondo di bene. Un saluto a tutti quelli del forum. Vorrei dedicare Again al mio amico Lorenzo, che ha cornificato ancora la sua donna, tradendola con tracottanza. Boh, non ho capito, vabbè. Vorrei dedicare Again ad una persona molto speciale. A te, a me, e grazie. Ivan. Dedico l'amour toujours a Laura, ringraziandola per come mi fa sentire ogni volta che la guardo negli occhi. Ciao, sono Alessandro. Voglio dedicare l'amour toujours a una splendida ragazza di Milano, Claudia, il mio tesoro. Dedico l'amour toujours a Cinzia, la mia piccola, perché credo nell'amore. Da quando la mia anima si è legata alla sua, Giuseppe. Sono Alessio da Catania. A mio fratello Pippo il brano L'amour toujours vorrei dedicare, per non dimenticare che i momenti del passato appartengono ogni giorno al mio presente. Giovanni di Fiano Romano, mi manchi tantissimo, ti prego, la tua tigrotta Morlupo. Sono Gio da Piacenza, volevo dedicare l'amour toujours alla mia ragazza per festeggiare 3 anni insieme, perché vorrei che fosse davvero amore per sempre. Sono Danilo, volevo dedicare l'amour toujours alla mia nonnina che entra ed esce da un ospedale per problemi di cuore, sperando che dopo l'angioplastica vada tutto per il verso giusto e possa avere un po' di tranquillità dopo 6 mesi di problemi e ricoveri. Sono Dani 90. Voglio dedicare l'amour toujours a Valentina di Siracusa, che mi piace un casino, ma che è fidanzata. Sono DJ Freddy G. Vorrei dedicare l'amour toujours alla ragazza che mi fa diventare matto. Lei si chiama Francina. Sono Anna 93. Vorrei dedicare l'amour toujours a Erika Grimaldi e a Massi. Sono l'apprendista illusionista. Vorrei dedicare l'amour toujours a Marcella di Roma. Sono Gne Gna. Voglio dedicare l'amour toujours a Francesca perché le voglio troppo bene. Ciao, sono una ragazza da Messina. Vorrei dedicare l'amour toujours a Carmelo per fargli capire quanto tengo a lui. Lo amo da morire. Ciao Gigi, vorremmo dedicare l'amour toujours ai nostri stupendi genitori Aldo e Marina, che oggi, 30 maggio 2006, festeggiano i loro 25 anni di matrimonio. Nozze d'argento. Il vostro amore è oltre. E dal cuore vi urliamo quanto siete meravigliosi. Grazie di tutto. Vi adoriamo. Dido e Ale. I still believe in your eyes. There is no choice. I belong to your life. Because I live to love you someday. You'll be my baby and we'll fly away. And I'll fly with you. Vorrei dedicare Wherever a Patatina Terrina. Siamo grandi amiche da 14 anni e insieme andiamo avanti. Tutto a posto. So many miles of travel around the world, and I didn't know anything about you. So many miles I think about you in time, and I didn't know anything about you. Dedicare lo sbaglio a mia madre, perché le piace tanto e perché di sbagli ne faccio tanti. Francesco. Sono Simone, vorrei dedicare lo sbaglio a Federica per fargli capire che a volte si sbaglia. Mi chiamo Marti, vorrei dedicare lo sbaglio ad Alberto perché lo amo. Sorridi anche quando sei triste, perché più triste di un sorriso triste c'è solo la tristezza di non sorridere. Non ho mica capito questo messaggio qua. Cristian, Giorgio e Nicola da Pianfei, vorremmo sentire la canzone Lo sbaglio. Daniele, Gigi, vorrei autodedicarmi Lo sbaglio perché mi fa piangere di felicità. In vita, beh, forse quel giorno era impazzita. Certi problemi non sono un dramma, perché la vita che li programma. E se lo fa, sa quel che fa. Chi lo sa, quando è che sbaglia, quando ci dona o quando ci toglie. Chi lo sa, quando è che sbaglio, quando sto solo o con mia moglie. Chi lo sa, quando è che è meglio, se per capire cos'è uno sbaglio. Nessuno sa qual è la soglia per poter dire diamoci un taglio. Chi lo sa se lasci un taglio non sia frutto del proprio orgoglio. Non so più qual è il mio meglio se non si scioglie questo groviglio. dedicare Gigi's Love a tutti i Gigi folli. Rino da Carmagnola. Ciao dottor Dag, sono Sara. Volevo dedicare Lento Violento al mio amore Damiano, perché con questa canzone l'abbiamo fatto la prima volta. Dedicare la mia canzone preferita, Paura e Nobiltà, alla mia ragazza preferita, Stefania, perché la amo. Alessandro, viva Pescara. Vorrei dedicare Paura e Nobiltà alla mia ragazza Maria Rita. L'unica cosa che mi rende nobile è a perderla. Meglio non pensarci. Tony Daenna. Non l'ho capita questa. Vorrei dedicare Paura e Nobiltà a tutto il mondo, per fargli capire con i tuoi passi, cammini e pensieri da dottore pensatore quanto sia importante la vita. Beval, Cesena. Non fa niente per creare un prepotente, tanti soldi e successo tra la gente, e la paura di non possedere più niente, questo basta a infettare la sua mente. Thank you. ci fermiamo quel minimo. Riprendiamo il cammino tra qualche minuto. Signore e signori, Gigi D'Agostino. Sono Rischio DJ da Cittadella, Padova. Dedico Lento Violento Man a tutti quelli che amano la vita come io amo la mia patatina Elena. Sono Sky 86. Vorrei dedicare Capriccio a Mario, il nano, perché lamentandosi non si ottiene nulla, a parte una scoglionata in mezzo alla carreggiata. Bellissimo. Ascoltare Passo Folk e dedicarla a me stesso, perché sono un egoista. Voglio dedicare al mio amore Sara. Vorrei fare una canzone e dirle che le ho finito il disegno in tempo. Bravo. Sono Fabri. Vorrei dedicare Vorrei fare una canzone alla mia ex fidanzata Milena, che mi manca da morire. Torna con me, cucciolo. Vorrei dedicare ad Alain, quello lì. Vorrei fare una canzone affinché sappia quanto lo amo. Sami 92. Dedico Vorrei fare una canzone a mia zia, che soffre in ospedale. Ti voglio bene, zia. Marco. Siamo Lippo e Corbi. Ti chiediamo Vorrei fare una canzone. Sì, perché Gigi è giocherellone. Vabbè. Vorrei fare una canzone da suonare con la chitarra per le strade e le persone. Vorrei fare una canzone per donare a tutto il mondo un poco di immaginazione. Vorrei fare una canzone